Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, è molto chiaro che il tema della elevata pressione fiscale le sta molto a cuore e in nome di una giusta istanza si può arrivare ad accettare una provocazione come quella della signora neoliberista di qualche giorno fa. Tra i motivi dell'elevata pressione fiscale, che nessuno nega, c'è anche la circostanza, aritmeticamente banale, che le tasse non le pagano tutti. Se tutti le pagassero a parità di gettito fiscale, sarebbe possibile abbassarle. Se poi il sistema fosse meno barocco, si capirebbe anche meglio come e perché pagarle. Ma non è questo il punto della mia critica. Il tema dell'elevata e ingiustificata, secondo alcuni, pressione fiscale, da Quintino Sella in poi, alimenta un partito trasversale che teorizza la disobbedienza civile, se non addirittura la rivolta fiscale contro lo Stato. Uno Stato altro e nemico che deve tutto, ma a cui non si deve nulla. La protesta e la disobbedienza civile sono istituti nobilissimi, da Gandhi in poi. Anche il Mahatma guidò la marcia delle masse povere al mare per rompere il monopolio inglese del sale. Ma qui l'unica marcia che vedo è quella dei SUV verso la Svizzera, in attesa del prossimo scudo che uno Stato, in quel caso meno nemico, sarà costretto a concedere per raccattare, come sempre, le briciole. Massimo. La libertà di stampa non è solo la libertà di scrivere quello che si vuole senza censura, ma anche la possibilità di rendere pubblico e fruibile quello che si scrive. Secondo il Censis, se non sbaglio, il 68% degli italiani decide chi votare seguendo i telegiornali, soprattutto TG5 e TG1, e non guardando le Iene o che tempo che fa. Va da sé che controllare i due TG più importanti e lasciare liberi i comici di dire quello che vogliono in seconda serata per dimostrare che non c'è censura è molto utile al sempre lodato Silvio. Il fatto che la maggior parte degli intellettuali di sinistra e non, italiani e non, osteggino il nostro amato Presidente del Consiglio vorrà dire qualcosa. Oppure hanno ragione gli ignoranti disinformati che continuano a sostenerlo qualsiasi cosa faccia o dica. Roberto. Egregio direttore, come siamo mal ridotti. Una legge elettorale che non permette nemmeno di scegliere i propri rappresentanti. Un conflitto di interessi infinito. Una carta costituzionale presa a pretesto per dire tutto e il contrario di tutto. Ad esempio, l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ma stiamo ancora discutendo del lodo Alfano, perché quello che riporta l'articolo dovrebbe essere letto in maniera diversa. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, eccetto le quattro alte cariche dello Stato. E perché non tornare all'immunità parlamentare, così che anche i componenti di Camera e Senato potranno lavorare con più tranquillità e dedizione al bene pubblico, in quanto, dicono loro, eletti dal popolo italiano. Mentre invece sono stati imposti da un capo. E dovremmo ancora andare a votare con questa legge elettorale? Giannetto. Che un leader di partito come l'onorevole Di Pietro si nasconda dietro l'immunità concessa ai parlamentari europei per difendersi da una causa per diffamazione e contemporaneamente sieda sui banchi del Parlamento italiano per urlare contro ogni tipo di immunità mi sembra eccessivo. Il PD, tanto attento ai comportamenti etici altrui, non poteva scegliere meglio? Si sono incatenati a una bella palla al piede, ovvero la forza del ricatto al quale non bisognerebbe mai cedere, come aveva fatto Veltroni. Enzo. Sempre più spesso i nostri politici si attribuiscono share di gradimento avallate da indagini e sondaggi più o meno verificabili, la cui fonte e metodologia spesso viene omessa. Ultimamente sembra che addirittura i forum di discussione siano diventati forza di ispirazione e sollievo. Tuonano da una parte che l'X% degli italiani è con noi e dall'altra che l'X% degli italiani sostiene la nostra opinione. Che tristezza. Siamo diventati, o forse siamo sempre stati, una percentuale, un gregge di tifosi che segue la squadra. Eppure struzzi, capaci di digerire per fedeltà alla bandiera, non quella nazionale, qualsiasi comportamento, qualsiasi tradimento, ogni maleducazione e persino le più ridicole e risibili iniziative, magliette, striscioni, scioperi e manifestazioni inutili. In questo contesto ho apprezzato moltissimo l'intervento di Ferruccio De Bortoli, che ha detto: «Perché in Italia bisogna per forza essere schierati, indossare una casacca?» Io ho sempre ammirato chi, nonostante pendesse più da una parte piuttosto che dall'altra, non ha mai rinunciato all'uso del proprio cervello in nome della ragione e dei propri valori. Un esercizio difficilissimo. I nomi? Ad esempio Giovannino Guareschi, democristiano, ma anche un po' peppone. Oppure Indro Montanelli, uomo di destra, ma di una destra con dei principi. E ci metterei anche Giancarlo Santalmassi e Ferruccio De Bortoli. Il libero pensare contro la prepotenza dei partiti. Gli schierati convinti e quelli meno convinti. Non sarebbe un bel tema da sviluppare, almeno per sapere se siamo poi veramente soli. Oliver Como. Ho trovato davvero esilarante l'intervista alla radical chic di sinistra che va sotto il nome di Milva la Rossa, arruolatasi improvvisamente tra gli anti-italiani per sputare nel piatto dove ha sempre mangiato. A quanto pare l'unica cosa ad personam che certi italiani considerano giusta è l'odio per la persona di Silvio Berlusconi, visto quello che quotidianamente circola in rete e non solo. Simone. Signori, le polveri fini fanno ammalare perché si depositano sui polmoni. Questa è una certezza, non una supposizione. Lo dicono i medici specialisti in pneumologia. Ma i geni dell'automobile italiana continuano a fabbricare auto che sputano veleno. I giapponesi almeno hanno costruito auto ecologiche e sono alla terza generazione di motori ibridi, mentre in Italia siamo in colpevole e criminale ritardo. E poi ci lamentiamo dell'impennata dei costi sanitari? E ci meravigliamo dell'aumento del debito pubblico? Poveri cucù. Michele. Carissimo direttore, possibile che né radio e TV né giornali abbiano ricordato in quale clima avvenne l'elezione di Napolitano alla presidenza della Repubblica? Accadde nel 2006, subito dopo le elezioni vinte al photo finish da Romano Prodi. I brogli elettorali erano sbandierati quotidianamente da Silvio Berlusconi, il quale pensava di ribaltare così il risultato delle elezioni. Il clima politico era arroventato. I parlamentari erano chiamati ad eleggere il capo dello Stato. Forza Italia e i suoi alleati si erano resi indisponibili a cercare una soluzione. Erano palesemente aventiniani, in attesa del ribaltone dovuto al riconteggio delle schede elettorali. Nel frattempo incominciava la battaglia per il referendum sulla riforma costituzionale, fatta a maggioranza semplice dal governo Berlusconi. Risultato: Napolitano venne eletto presidente della Repubblica a maggioranza semplice e il referendum costituzionale venne bocciato con il 62% dei no. Era il giugno 2006. Nel frattempo i governanti di altri paesi ricevevano lettere personali di Berlusconi in cui affermava che si era allontanato momentaneamente ma che, effettuati i nuovi conteggi delle schede elettorali, sarebbe ritornato a breve a ricoprire la carica di presidente del Consiglio. Dico tutto ciò per ricordare che è proprio vero che questa nazione non ha memoria. Agostino. Caro Agostino, posso concordare con lei sul fatto che il paese ha poca memoria, ma nella sua ricostruzione dei fatti manca un elemento significativo, cioè il fatto che di fronte ai risultati del voto Berlusconi dichiarò di essere disponibile a un governo di larghe intese, qualcosa di simile della grande coalizione che governava la Germania. Forse era un'offerta del tutto strumentale e propagandistica, tant'è che nessuno la prese seriamente in considerazione. Iniziarono così 2 anni di lavoro per un governo appeso a pochissimi voti di maggioranza, continuamente condizionato dai piccoli gruppi di media ed estrema sinistra. E nonostante la grande buona volontà di Romano Prodi, fu la stessa sinistra a prendere le distanze, cambiando completamente strategia nelle elezioni dello scorso anno. La storia non si fa con i se e con i ma, però in questi ultimi anni l'Italia sta vivendo la peggior forma di bipolarismo forzato ed esasperato. In questa situazione non solo è difficile avere memoria del passato, ma è ancora più difficile avere speranza nel futuro. Caro direttore, sono un imprenditore di 42 anni. Le scrivo perché quando ho sentito che Tremonti, esponente di Forza Italia, ma anche della Lega, vuole rifare la cassa per il mezzogiorno, non volevo credere a ciò che sentivano le mie orecchie. Ma veramente si pensa che per aiutare il Mezzogiorno ci sia di nuovo bisogno di una banca dello Stato che regali soldi a finti imprenditori anche al Nord, che prendono soldi a fondo perduto quasi per creare finti posti di lavoro? Incredibile. E a proposito di Tremonti che si lamenta perché le banche non aiutano le imprese, ma lo Stato che lui rappresenta non paga forse le commesse ai privati dopo un anno quando va bene? Se vuole immettere liquidità nel sistema invece di dare i soldi alle banche, che dovrebbero darli a noi, non sarebbe più semplice pagare tutti a 30 giorni? E poi com'è possibile che se io come azienda voglio fare causa a un cliente che non paga, mi ci vogliono 3 anni quando va bene? Io pago le tasse e dallo Stato non voglio in cambio soldi o finanziamenti a fondo perduto, ma chiedo solo che mi siano garantiti i servizi essenziali per poter lavorare. Un mio cliente di Napoli mi disse una volta che da loro le tasse non si pagano, ma si pagano invece i camorristi, e che quando lui doveva riscuotere un pagamento da qualcuno gli bastava fare una telefonata e dopo un giorno i soldi erano in banca. Come può lo Stato pretendere di sconfiggere la piaga delle mafie in Italia se si comporta peggio di loro? Massimo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.